Ok, testa sulle spalle più a terra. E sai come venga, non è sempre la strada più facile, ma è anche necessaria. La sfida resta farti valere per la luce che hai dentro. Ma intanto cos'è quella strana forza che ti corre dietro? Cammina alle mie spalle, ho viaggio dentro bolle. Si spinge con le molle, ma mi renderà più folle. Io contro il nickel, che se ne dica. Lui vuole la mia vita, ma accende la mia sfida. Praticamente no, non mangio niente. Evitare tutto come il morso di un serpente. Chi se ne fa, infatti non mi fotte niente. So di avere torto, ma gli torno sempre sotto. Mi ingozzo, fino a quando non mi strozzo. Suonerà la sveglia, ma con un pasticcino a fianco. Ciò che indosso, porta dermatite. Tra anelli e collanine, sono soldi se ferite. Mi segue la paura, ma ho paura che non mi segua niente. Se mi esiliano su fuco quasi a caso con la mia immaginazione. Fra, voglio evitare il suo viaggione elementare. Cercare di rimuovere la via della prigione dalla mente per raccogliere felicità. La realtà è cosciente, ma nel mentre la mia confusione è impertinente. La direzione è fuori da questa città e l'altruismo dà forza. Dall'assù qualcuno mi guarderà sicuramente. Cerco una cura consistente, dove ogni componente mi assicura la disposizione a una versione naturale. La paura fuori dentro queste mura è quasi sempre più dura. Scarico la convinzione in questa morsa, panico. In questa corsa ti matura il cranio. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Oggi chiudo gli occhi a stento, e sembra un paradosso di cui sembro contento. Rientro col volto sconvolto dei miei, mi pento. Non rimpiango il vento della media col lento. Mi concentro con un occhio semi spento sui semi, con la franchezza e la freschezza che temi. Ho tutti i miei teoremi del caso, persuasi a coglierli in centro in sistemi. In questo mare cerca remi, cerchia rime contro scleri seri. Con tanti contatti, con fatti che son veri misteri. Ricorda la pazienza e l'essenza dell'esperienza, per perdere e prendere te stesso nel tuo ieri. Guardami mamma, sto sistema mi ha ridotto troppo male. L'unica forza è nel pregare, tanto vale imparare ad imparare da chi sa più di me. Spero che non mi induca al male. Cos'è normale nel mio mondo? Non lo so. Non lo so se è normale questo mondo, non lo so. Cosa so? Domanda e non rispondo. So che dentro questo petto pulsa il mio terzo occhio. Fisso me stessi mutamenti nel tempo. Tengo il tempo al momento e in un momento un nuovo tempo. Detengo primati di crisi di coscienza. Lavo la mia anima, detergo la coscienza. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Prenderlo per alibi potrebbe darci tanto, ma torpace negli animi. Questa forza qui ci corre dietro, lo sappiamo, ma ve la cediamo per non essere avidi. Capito cos'è?